GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. È l'affare tra Milan e Paris Saint-Germain per Ibrahimovic e Thiago Silva che infiamma il calciomercato. Il servizio. L'annuncio ufficiale non c'è, anche se i francesi si sbilanciano e Berlusconi avrebbe confermato che davvero Ibrahimovic e Thiago Silva hanno preso la strada per Parigi. Quasi 70 milioni di euro per i cartellini. Sarebbe stato da irresponsabili dire di no, ha spiegato Berlusconi, insensibile questa volta alle proteste del popolo rossonero. In realtà l'annuncio manca perché anche l'accordo tra Ibrahimovic e il PSG ancora non è stato definito. Lui vorrebbe un ingaggio record da 15 milioni di euro, Leonardo offre meno, 9 per 4 stagioni, ma il punto di contatto è a 12,5 milioni per due anni con opzione per il terzo. Si ricomincia a trattare questa mattina dopo la giornata frenetica di ieri, aerei, vertici, telefoni roventi, Thiago Silva attende in Brasile, ma lui è già d'accordo con i francesi e Galliani è pronto a ratificare tutto, mettere in cassaforte un tesoro da 170 milioni di euro, ripianare il rosso di bilancio e investire il resto per disegnare il Milan del futuro. Tevez e destro le ipotesi in attacco, Rolando, Astoria e Ogbonna per la difesa, progetti su cui già ieri si è mosso qualcosa in attesa dell'ok di Ibrahimovic che sbloccherà l'affare dell'anno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche Fabio Capello vicino a un nuovo trasferimento all'estero dopo l'addio alla panchina dell'Inghilterra. Capello sarebbe in prima fila per quella della Russia. E a Napoli il capitano Paolo Cannavaro un po' rimpiange l'addio a Ezequiel Lavezzi, anche lui volato al Paris Saint-Germain. Ma è normale che senza Lavezzi qualcosa di imprevedibilità si può perdere. Era un giocatore che comunque si era affermato a Napoli e non è facile farlo, e si era affermato anche nel campionato italiano. E ora, tanto per rimanere in Francia, il Tour de France, appunto, con un grande Nibali che mette in difficoltà la maglia gialla Wiggins. Dopo la grande battaglia delle Alpi che hanno confermato la forza del Team Sky, la tenuta del britannico Brady Wiggins e la voglia di fare saltare il banco del nostro Vincenzo Imari, sicuramente il più combattivo, il più letale, che proprio al momento si deve accontentare del terzo posto, 18 secondi dalla seconda, a 2:23 la maglia gialla, il siciliano si gode il podio. Vincenzo ci ha provato in tutti i modi, in discesa e in salita. Tosto Vincenzo, che fa la parte del duro e mette per la prima volta in crisi il duo volante Wiggins e Froome, che accusano, barcollano, flettono, ma non si piegano. Si staccano, ma ritornano sempre lì al loro posto davanti a Nibali, che si deve accontentare in attesa della sfida finale la prossima settimana sui Pirenei. Oggi tappa lunga, lunghissima, la più lunga di questo tour, da Saint-Jean-la-Maurienne a Nonnet-de-Vezot. La tappa lunga e tortuosa, ma non è impossibile. Tappa per attaccanti, per cacciatori di giornata. Tappa per i delusi, per i corridori staccati, quelli che il tour l'hanno già perso e potrebbero farlo perdere anche gli altri. Non certo Wiggins, che per staccarlo ci vuole ben altro. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Saint-Jean-de-Maurienne. Per la MotoGP scatta stamattina con le prove libere il fine settimana che porta al Gran Premio d'Italia al Mugello domenica, ma la notizia già l'ha data Valentino Rossi, che di fatto ha ufficializzato che prolungherà il contratto con la Ducati. Decisivi i contatti con l'Audi, nuovo proprietario della rossa di Borgo Panigale. Anche la Honda ha ufficializzato i piloti per il prossimo anno, sono il confermato Dani Pedrosa e l'altro iberico Marc Marquez, che sostituirà Casey Stoner, campione del mondo in carica che ha preannunciato il ritiro a fine stagione. Per un campione che lascia, una campionessa che decide di continuare, Carolina Kostner, iridata del pattinaggio artistico su ghiaccio, che ha annunciato che continuerà a gareggiare appunto fino alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014. E per la prima volta nella storia anche due atlete saudite parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Londra. Si tratta della judoka Vojan Sakriani e di Sara Attar, che correrà negli 800. Arabia Saudita, Qatar e Brunei, che pure invieranno delle atlete, erano gli unici tre paesi a non aver mai mandato finora donne alle Olimpiadi. Per lo sport è tutto, ancora una buona giornata.